Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dai studi di Radio Onde Furlane da Udine, e partiamo con la sigla di questa trasmissione. Il brano che abbiamo ascoltato ora è la sigla d'apertura di questo programma radiofonico che viene trasmesso ogni giovedì dalle ore 20 alle ore 21:30 in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane da Udine. Andremo avanti fino alle ore 21:30 da adesso, ovvero dalle ore 20. Il brano che abbiamo ascoltato è Retribution dei Behind Enemy Lines, e vi ricordo che questa trasmissione viene condotta dall'Assemblea Permanente contro il carcere e la repressione del Friuli e Trieste. Ma andiamo con intanto il primo brano che ora ascoltiamo, che è ovviamente Andrea Sigona, ed è un brano dedicato a Sole e Baleno. Aveva coraggio, nata nei giorni di lotta e allegria, preso preso per sbaglio oppure già condannato da chi l'ha voluto portarcelo via. 5 di marzo si accendono i fari in quelle due vite vissute così, come due fiori in un campo di maggio, strappati e recisi perché fragili. There will be trouble in town. There will be trouble, trouble in town. Suicidio di stato 28 di marzo. L'alba annunciava rumori a palazzo e un calcio nel culo alla democrazia. There will be trouble in town. There will be trouble, trouble in town. Ciao a tutte e a tutti e bentornate all'ascolto di Zernis Magnetics. Allora, abbiamo iniziato con questa canzone, questa ballata così, che ricordava Edo e Soledad, e Baleno e Soledad appunto, perché l'altro l'11 di luglio, quindi pochi giorni fa, due giorni fa, correva il 25esimo anniversario della morte di Maria Soledad Rosas. Appunto, la canzone un po' ripercorreva la vicenda, vale la pena di ricordarlo. Sole, Baleno e un altro compagno, Silvano Pellissero, sono stati arrestati il 5 marzo 1998. La polizia aveva fatto irruzione nell'ex obitorio del manicomio di Collegno, che era un luogo occupato dal 1996, dove i tre compagni vivevano. E appunto sono stati arrestati con l'accusa di banda armata e associazione sovversiva per delle azioni di sabotaggio contro l'alta velocità e tutto il suo indotto in Valsusa. I PM erano i famigerati Laudi e Tatangelo, che sono ancora famigerati tuttora. E il 28 marzo Edo Massari Baleno viene trovato impiccato nella sua cella alle Vallette. E poi ci sono tutta una serie di vicissitudini. Chi ha un po' di anni si ricorderà la faccenda dei funerali, durante i quali insomma c'è stata questa invasione da parte di alcuni giornalisti poco accorti, e quindi le hanno curate e così insomma poi Maria Soledad Rosas viene messa in un, ai domiciliari in una comunità, nella comunità sotto i ponti di Benevagienna, e lì l'11 luglio anche lei insomma sceglie di suicidarsi. E ricordiamo, perché comunque diciamo che era all'inizio la lotta contro il TAV, e tra l'altro poi questi compagni sono stati incriminati sulla base di, parlavano i PM di prove granitiche, in realtà non c'era praticamente niente, nessuna prova, e difatti furono anche poi alla fine assolti, però erano già morti, e solamente Pellissero fu condannato per reati minori insomma. E niente, un ricordo così, un momento di memoria che insomma ci sembra importante portare avanti. Ritorniamo in voce perché stasera siamo partiti anche un po' in ritardo, non per nostra responsabilità, e abbiamo tante robe da dire, e appunto passiamo a un approfondimento su una lotta che sta avvenendo in Carnia, la lotta contro il progetto SIOT. E forse non tutti sanno che tra le Alpi Carniche e la Germania, passando per l'Austria, passa un oleodotto di oltre 700 km che porta petrolio dal porto di Trieste alla Baviera. Il percorso è punteggiato da 4.000 paline che segnalano il passaggio dei tubi interrati, tre tunnel di 7 km l'uno, ponti per attraversare fiumi, e ne attraversa ben 30, e canali ruscelli, ben 130. Nonostante pascoli e terreni espropriati e rischi di sversamenti, l'opera sarebbe un esempio di ecosostenibilità. Mentre il vero responsabile del riscaldamento globale, forse anche questo non lo sapevate, è chi ancora si scalda con le stufe a legna. Questo era l'incipit di un articolo che ha scritto una compagna, una nostra compagna che abita in Carnia, che è apparso sull'ultimo numero, primavera-estate 2023, di Nunatak, rivista di storia, cultura e lotte della montagna. Allora, io vi dico qualcosa di questo articolo, perché questo articolo parte da, non parla solo della SIOT, parla un po' di tutto un sistema di sfruttamento, di colonizzazione, diciamo, e di depauperamento della terra di Carnia. e per poi arrivare alla SIOT, perché poi più tra un po', tra una decina di minuti, avremo ospite al telefono un componente del comitato No SIOT, che organizza per sabato 15, quindi tra due giorni, una manifestazione. Allora, si partirà addirittura venerdì con un campeggio proprio presso la centrale SIOT di Paluzza. Poi sabato ci sarà un corteo da Paluzza fino alla centrale e poi domenica una, presso il campeggio, un'assemblea aperta anche per vedere quali sono le prospettive di lotta, ma comunque poi dopo ci faremo dire in dettaglio quello che succederà. Allora, intanto io vi do qualche così, leggo alcuni passi di questo articolo di cui vi dicevo. Allora, intanto ci dice la compagna: la Carnia è ricca di risorse che hanno da secoli suscitato gli interessi delle classi dominanti e di conseguenza il loro accaparramento, a cominciare dal legname che già dal 1580 iniziò a essere requisito mediante la creazione di aree boschive denominate bosco bandito, appunto bandito per la popolazione, ad uso della Serenissima per la necessità dell'arsenale, per la costruzione di remi, galee e quant'altro. Poi ci sono le cave di marmo, di cui l'attività estrattiva del cosiddetto grigio carnico cominciò già nel 1800 ed è poi diventata un'estrazione di tipo industriale negli anni 60 dello scorso secolo, con la creazione di numerose cave che vengono gestite da ditte per lo più venete, che oltre a manodopera locale vi impiegano numerosi operai provenienti dalla zona del Veronese. Oltre alle cave, poi, sul territorio carnico ci sono le miniere del Monte Avanza, le più antiche della regione, delle quali si ha testimonianza di attività mineraria già dal 778. I minerali metallici presenti nel giacimento sono tetraedrite, galena, sfalerite o blenda, pirite e altri, da cui si ricavavano rame, mercurio, argento, zinco e antimonio. Nella gestione di questa miniera si sono alternate varie ditte, da quelle venete a quelle triestine, e lo sfruttamento si è concluso negli anni 90. La Carnia, inoltre, è terra di confine, e qui veniamo proprio all'oleodotto transalpino gestito dal gruppo TAL. Di conseguenza, proprio per essere terra di confine, per questa sua condizione, le sue terre vengono usurpate già dagli anni 60 per la costruzione dell'oleodotto transalpino gestito dal gruppo TAL, che è costituito da tre società, tra cui la SIOT, Società Italiana per l'Oleodotto Transalpino S.P.A. E appunto questo oleodotto parte da Trieste, attraversa Carinzia, Tirolo e raggiunge Ingolstadt in Baviera ed è lungo 753 km. Supera il confine italo-austriaco con una galleria di 7 km presso il passo di Montecroce Carnico nella Valle del But. Nella progettazione delle traiettorie di queste tubazioni spaventosamente lunghe e elaborate, furono scelte le aree meno scoscese. Di conseguenza queste aree furono rubate al loro uso originario di prati da sfalcio. E tenendo presente che in Mont i prati venivano e vengono tuttora utilizzati soprattutto per la produzione di foraggio, per le piccole aziende agricole e per i carnici che hanno ancora qualche animale da latte, sono stati rubati in quanto i terreni meno ripidità presentano, meno sono insomma difficoltosi da questo punto di vista del lavoro di sfalcio. Quindi, primo furto, questo dei prati meno scoscesi. Poi, una cosa non secondaria, lo svisceramento del torrente But per l'interramento dei tubi, che causò la scomparsa della falda superficiale dell'acqua, che si è così approfondita impoverendo la superficie. Ad esempio nel 96 la SIOT ha nuovamente sviscerato il greto del But da Sutrio a Enfretors per costruire gli sbarramenti a protezione del tubone interrato, favorendo così l'ulteriore penetrazione della falda acquifera nel sottosuolo. Poi non bisogna dimenticarsi che il pericolo concreto che questo tubone lunghissimo possa spezzarsi e disperdere così il contenuto nella falda è una minaccia sempre presente. E nel 2022 la SIOT propone un ulteriore progetto, cioè propone la costruzione di quattro centrali a metano di cogenerazione di elettricità e calore lungo la linea del suddetto oleodotto. Allora, i benefici di questo progetto chiaramente vanno all'azienda triestina SIOT e ai suoi azionisti, che sono OMV, Shell, Rosneft, Eni, Gunvor, BP, Exxon Mobil e Total, per dire. Mentre sul popolo carnico graveranno emissioni aggiuntive, rumore e un impatto paesaggistico di non poco conto. Inoltre questo progetto, ma poi magari l'esponente insomma del comitato lo spiegherà più in dettaglio, però vale la pena di dire che con questo progetto è previsto un oltre di 3 per, una quantità superiore al 3% di anidride carbonica all'anno in più sul totale regionale, quando sarebbe il caso di ridurre del 4% l'anno questa emissione di CO2 per decarbonizzare i nostri consumi energetici. Ecco, quindi praticamente questa insomma un po' è il progetto di questa SIOT. Cosa si può dire ancora? Intanto che c'è tutto un lavoro di propaganda su questa, su questo progetto, ma sulla SIOT in generale proprio. Viene definito, il TAL viene definito un capolavoro dell'ingegneria. Ricordiamo che nel 2017 ha celebrato il suo 50° anniversario, si parla appunto di boom economico e del dopoguerra e di conseguente crescita della domanda di energia, e quindi negli anni 60 c'è stata la costruzione di nuove raffinerie e oleodotti per poter soddisfare questa domanda di energia, e appunto la propaganda delle stesse multinazionali insomma ci dice che il TAL è stato costruito, quindi questo insieme di 32 depositi diciamo a San Donlego della Valle, è stato costruito in soli 1000 giorni, uno dei primi progetti paneuropei avviato dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale e finalizzato alla crescita dell'economia transnazionale. Poi insomma c'è tutta una retorica anche sulla sicurezza, sul fatto che sarebbero molto attenti alla sicurezza, e anche sul fatto che porterebbe ricchezza diciamo non solo a Trieste ma un po' a tutto l'indotto, e addirittura è stato presentato, mi sembra a maggio di quest'anno, addirittura una tesi di laurea Marchetta, appunto una tesi di laurea fatta dentro, cioè all'interno della struttura insomma da parte di un tal Matteo Pertoldi, giovane neolaureato con il massimo dei voti alla facoltà di economia dell'Università di Trieste. Lui appunto ha lavorato all'interno della SIOT TAL e ha lavorato specificamente sull'impatto economico delle attività dell'oleodotto sul territorio. Beh, insomma, per farvela breve, dice che nel 2021, grazie a SIOT, il territorio ha beneficiato, parliamo del territorio triestino, di circa 230 milioni di euro, generando 120 occupati diretti, che poi non è sta gran roba, ma e 680 posti di lavoro diciamo complessivi pensando all'indotto. Vabbè, quindi questo genere di opere insomma producono tutta una serie di compiacenze, perché chiaramente c'è un giro economico molto, molto importante, e producono però un grave sfruttamento di territori che sono già sfruttati, come quello della montagna, e sono già anche spopolati diciamo a causa del sistema economico capitalistico come si è sviluppato. Però per fortuna questo tipo di progetti produce anche resistenza e appunto ribellione contro i progetti stessi. E proprio di questo parleremo tra qualche minuto con un compagno dei comitati contro la SIOT. Oh, yeah, the barba! Oh, yeah, the barba! It is an awful responsibility which has come to us. We thank God that it has come to us instead of to our enemies. And we pray that he may guide us to use it in his ways and for his purposes. All right now, James, will you tell them that the United States government now wants to turn this great destructive force into something good for mankind? Mandi, buonasera. Buonasera. Allora, magari sarei sbielfe e ve la per Furlan, no? Sì. Però, come ti dicevi già, che trasmissione che le ascolti in Ange Fur dal Friul, e allora magari, magari fevelin partalian in maniera che duce po' di incapì, insomma, in maniera anche che le questioni si conosce Ange Fur dal Friul, no? Va bene. D'accordo, va bene. Ok. D'accordo. Allora, noi abbiamo già un po' parlato di questo articolo che è uscito su Nunatak, questa rivista di storie e lotte delle montagne, una rivista che fanno in Piemonte, ma che e quindi nelle Alpi occidentali, ma che si interessa di tutte le vicende di resistenza, di lotta, insomma, delle montagne per l'autodeterminazione. Allora, è stato fatto questo articolo sulla faccenda della SIOT, però parlando anche un po' della carnia in generale, di tutti gli sfruttamenti che insomma hanno pesato, diciamo, sulle terre della carnia. E arriviamo adesso a approfondire il discorso della SIOT. Se tu vuoi dirci un po' qual è bene il progetto di questi quattro centrali di pompaggio e cogenerazione. E poi magari parliamo anche della mobilitazione, in modo anche da invitare il più possibile persone a venire, insomma, a partecipare sabato. Va bene, perfetto. Ok. Sì. Quando mi dici, vado. Quando vuoi. Sì, sì, parliamo un po' allora del progetto SIOT. Allora, la SIOT, partendo 2 anni fa praticamente, sì, ha progettato queste centrali che funzionano a gas, che vanno ad affiancare le centrali di pompaggio del greggio che va fino in Germania. E si è saputo poco tempo fa che questo greggio, siccome c'è la guerra tra Ucraina e Russia, ecco, e quindi questo greggio andrà a finire anche in Cecoslovacchia, quindi fornirà anche il greggio per lo Stato della Cecoslovacchia. Quindi hanno pensato bene quelli della SIOT di affiancare a queste centrali di pompaggio delle centrali che funzioneranno a gas, con l'obiettivo di scaldare il greggio per farlo fluire più rapidamente. Questo è l'obiettivo dichiarato. In realtà queste centrali usufruiranno parlano di efficientamento energetico, sì, usufruiranno dei contributi europei per questa energia, no? Sì. E loro chiamano centrali ad energia rinnovabile. In realtà non è rinnovabile, perché il gas non è una fonte rinnovabile, non si rinnova il gas, è un po' come il petrolio. E quindi ricaveranno degli utili da questi contributi, i famosi certificati bianchi li chiamano. Ecco. Qui parliamo di milioni di euro. Ecco, però Detto questo, ovviamente le centrali a gas inquinano, cioè mandano tonnellate di CO2 nell'atmosfera. Noi siamo una piccola valle stretta e quindi lei capisce che tutte queste questi fumi che non si vedono, come dice l'amministratore delegato della SIO, è ovvio che non si vedono questi fumi, però esistono. La CO2 non si vede, ma esiste. Però esiste, ecco, e sono tonnellate di CO2 nella vallata. Certo. Allora, per spiegare un po', io prendo spunto da un'intervista proprio fatta a questo amministratore delegato della SIOP, una delle tante che ha fatto, perché ovviamente è supportato anche da qualche giornale regionale. E mi pare anche un po' dall'amministrazione regionale. E anche dalla regione, perché la regione ha avallato questo progetto. E quindi prendo spunto appunto da questa cosa, tra l'altro senza possibilità di replica a queste famose interviste, ma per farle breve, ho trovato in questa intervista almeno 10 punti un po' contraddittori, un po' che lasciano un po', cioè non fanno capire bene in realtà che cosa succede, ma questo è fatto appunto per non capire, per buttare fumo negli occhi. Esattamente. Allora, loro dicono, ovviamente hanno detto che si rende più fluido il greggio. Questo è vero, ma è vero fino a un certo punto, perché il fluido, dai calcoli fatti da alcuni ingegneri esperti in questa materia, risulta che il greggio diventa più caldo e quindi scorre di più per 1 km e 600 metri e poi torna alla temperatura di prima. Sì, quindi è proprio un alibi questa centrale a gas. In realtà utilizzano poi il gas che producono loro, perché la SIOT, all'interno della SIOT, le società che fanno parte della SIOT sono per esempio l'ENI, l'ENEL, e addirittura abbiamo scoperto che una delle partecipate è una direttamente collegata a Putin. Ecco. Quindi una società russa, no? Che bypassa tutte le praticamente tutti gli impedimenti, no? E tutti i divieti di vendita e di compravendita in pratica del petrolio russo. Quindi praticamente ufficialmente non c'è scambio di petrolio con la Russia, ma poi indirettamente il petrolio russo attraverso la SIOT arriva comunque in Europa. Ecco. Ecco, e questa è una alta efficienza, dice l'amministratore Gatt, Lilly si chiama. Sì, Lilly, sì. Ecco, alta efficienza utilizzando le rinnovabili, ma come si è detto prima, il gas non è una fonte rinnovabile. L'abbattimento delle emissioni di CO2, in realtà avremo tonnellate, migliaia di tonnellate di CO2 nella valle. Efficientamento dei consumi e riduzione delle emissioni, quindi non è proprio questo il caso. Altra affermazione molto superficiale, dice che il gas di cucina non dà fumo e quindi neanche noi, dice lui, ma è ovvio, cioè anche il gas, se facciamo uscire il gas dal fornello senza bruciarlo, non si vede, però avvelena ovviamente, no? Sì, sono affermazioni molto banali e cioè, quindi sì. Certo. Quindi minimizza anche, diciamo, tutti gli elementi di impatto negativo. Completo. Allora, è un'azienda che crea ricchezza, la ricchezza la crea solo per l'azienda, per loro stessi, sì, perché posti di lavoro non ce ne saranno, perché queste centrali funzioneranno in automazione. Ci sarà qualche tecnico forse, come a San Dorligo, ma insomma sì, tirano in ballo la comunità energetica, ma con la SIOT la comunità energetica come concetto non ha proprio niente a che fare, anzi è proprio l'opposto, La riduzione alla fine dice avremo una riduzione di costi energetici, ma se andiamo a vedere i costi energetici saranno una riduzione sì e no del 5%. Allora uno viene a chiedersi ma com'è, spendono milioni per costruire queste centrali per risparmiare il 5%, tanto valeva rimanere come si era, per cui non c'era questa, quindi sotto c'è molto che non sappiamo, che la popolazione non sa, lo sanno solo loro, noi possiamo ipotizzarlo perché abbiamo fatto anche noi i nostri calcoli, e quindi sono, per farle un esempio, sono una spesa di 4 milioni e mezzo per impianto, sì, ma dopo 2 anni e mezzo già hanno ammortizzato questa spesa. Però quindi è un investimento altamente, altamente vantaggioso per loro. Lucroso per loro. Per noi invece come territorio assolutamente devastante. Esattamente. Allora arriviamo alla lotta vostra. Beh, intanto sì. Noi eravamo, qualcuno di noi qua che facciamo la radio, anche eravamo stati, cos'era, l'anno scorso? A una manifestazione a Paluzza, sì, un presidio, insomma avevamo un po' partecipato, sì. Ad alcuni momenti. Il comitato, sì, diciamo c'è stata anche un'evoluzione nel comitato, no? Mi pare negli anni. Ma in realtà il comitato è sorto appena abbiamo avuto notizia di questi progetti, quindi sì. Si parla di un anno fa. Sì, 2022, sì. Ecco, adesso dopo varie iniziative, proteste anche a livello di consiglio regionale, sì, eccetera, più istituzionali, ecco, a questo punto siamo arrivati ad avere il supporto di due associazioni, di due movimenti ambientalisti, che sono Fridays for Future e Extinction Rebellion, questi due movimenti che si sono impegnati a fare una manifestazione a Paluzza, e dico domani praticamente comincia questa manifestazione, ma il clou sarà sabato, sì, con una sfilata, con un corteo, insomma, cartelli, un corteo, uno striscioni e quant'altro, sì. E quindi è domenica una pensiamo un'assemblea che io spero numerosa, in cui la gente avrà il suo spazio e il suo modo per esprimere le proprie contrarietà, le proprie opinioni su questo progetto. Io spero che domani, sabato sì, almeno per la sfilata, diciamo, sì, il corteo. Il corteo ci sia una partecipazione, insomma, nutrita, sì. Perlomeno da parte dei giovani. Ma certo, è importante anche perché è importante che le proteste, diciamo, siano proprio sul territorio, no? Cioè che siano visibili anche sul territorio, non solamente attraverso i giornali, non lo so, o così. Perché si ha anche un po' il polso della situazione di più, no? Se ci si, anche il fatto di esporsi, voglio dire, sulla strada, così è una cosa importante. Certo. E, quindi, per ricordare bene tutti gli appuntamenti, domani, che è venerdì, inizia il campeggio, giusto? Il campeggio No Siot. Esatto. Che è presso, in un prato presso la centrale. Presso la centrale, sì, molto. Che sarebbe tra Paluzza e Enfretors. Tra Paluzza, sì, c'è, cioè proprio vicino alla statale, quindi è una zona visibilissima, okay. E sicuramente saremo lì ad accogliere i giovani che vogliono venire, insomma, a campeggiare. Il sabato mattina ci si organizza con i cartelloni, gli striscioni e quant'altro. Bene. Per avere poi la manifestazione vera e propria alle 17 nella piazza del comune. Sì. Piazza del Municipio di Paluzza, sì, e poi si va fino alla centrale. E da lì si va fino alla centrale. Perfetto. Un percorso di 1 chilometro circa. Ecco. Bene. E domenica poi c'è l'assemblea alle 10. Ma il clou dell'evento, insomma, sarà sicuramente il pomeriggio di sabato. Sì, e poi dopo il pomeriggio, dopo il corteo, ci si può fermare anche per continuare, se si vuole discutere, insomma, lì presso, certo, il campeggio. Sì, la sera poi abbiamo organizzato. Sì, c'è un momento anche conviviale, sì, sì. Un momento conviviale, sì. Ok. Ci siamo messi così metteremo un po' a disposizione gli spazi, la musica, anche il cibo, se sì, sì, chi volesse. Sì, sì, in modo che ci sia anche una forma di autosostentamento, finanziamento, insomma, dell'iniziativa, sì, perché sì, immagino che essendo un'iniziativa autogestita e non finanziata da nessuno, sì, ci sono, sì, anche delle spese, no? Sì. In realtà noi come comitato abbiamo fatto a suo tempo, abbiamo fatto una raccolta di fondi proprio per, sì, sostenere il comitato e le sue iniziative, perché abbiamo anche fatto ricorso al TAR, sì, sì, mi ricordo avuto, questa cosa. Uh-huh. Ecco, abbiamo avuto anche, dobbiamo sostenere un riscontro, questa battaglia, no, dal punto di vista giuridico, quindi la gente ci ha sostenuto, quindi abbiamo un piccolo capitale che possiamo gestire per le nostre iniziative. Per le iniziative politiche, bene. Beh, speriamo anche allora che la popolazione locale partecipi, sì, numerosa. Sì, certo. Bene. Li accogliamo tutti, anche chiunque, certo, venga, e sarà ben accolto. Bene. Bene. Va bene. Allora, non so, hai altre cose da dire? Abbiamo dimenticato qualcosa? No, credo. No. Per ora è tutto. Sì. Bene, allora ci vediamo, sì, sabato su. Va bene. Va grazie bene. Mille. Grazie, Maman. Grazie a voi. Mandi. Buona mandi. Sera. Intanto stiamo ascoltando in sottofondo alcune band, tutte estrapolate da una compilation che si chiama Europe in Decline, che è uscita nel 1997 negli Stati Uniti grazie all'etichetta Six Weeks, e appunto è una compilation a livello internazionale, che un po' sono partito a caso, perciò ci vuole un po' di tempo a recuperare che band stanno in realtà suonando in questo momento, e magari dopo ve lo dirò. Yeah. Sì, e dopo questa così bella notizia di una manifestazione, di un corteo in Carnia, che secondo me è una cosa comunque importante, una mobilitazione reale, non appunto virtuale o mediata da altre cose, di cui abbiamo parlato qualche minuto fa, diamo anche un'altra buona notizia, e cioè sono stati tutti assolti e assolte le compagne e i compagni No Green Pass di Trieste, che ieri proprio hanno avuto l'udienza definitiva. E allora il capo d'accusa era interruzione di pubblico servizio, e perché? Perché il 1 febbraio 2022 queste compagne e compagni si erano presentati all'entrata della posta centrale di Trieste pretendendo di fare delle raccomandate a Draghi, e avevano fatto questo per protestare contro l'obbligo di Green Pass per accedere agli uffici pubblici. Ecco, in seguito a questa azione appunto c'è stata questa incriminazione per interruzione di pubblico servizio, però per una volta tutti assolti. Ecco, un saluto a tutti e a tutte le zardiniane in ascolto, anche da parte del sottoscritto. Io questa sera volevo partire dandovi degli aggiornamenti riguardo così vari compagni prigionieri reclusi. Notizia di oggi 13 luglio su Il Dubbio: Sassari tolte di nuovo a Cospito le foto del padre e della madre. Sono state ritolte dopo che erano state restituite ad Alfredo Cospito le foto dei suoi genitori, che teneva in cella a opera, erano state ridate a Sassari Bancali. La nuova decisione con invio delle foto alla Corte d'Assise d'Appello di Torino, che di recente, eccetera, la Corte del Capoluogo ha trattenuto le immagini. L'avvocato Rossi Albertini ha presentato reclamo. Ci sarà un'udienza per decidere se Cospito ha diritto di poter tenere le foto del padre e della madre defunti. Sembra una vicenda surreale, ma è forte il sospetto di un accanimento per il clamore suscitato dal lunghissimo sciopero della fame, durato 6 mesi, che ha causato danni neurologici, quantomeno in parte non saranno più recuperati. Le foto dei genitori sono trattate dall'autorità come fossero armi pericolosissime che Cospito sarebbe pronto a usare. La battaglia contro l'applicazione 41 bis da parte di Alfredo Cospito non solo per sé, ma soprattutto per gli altri 750 reclusi costretti a sperimentarlo, continua a dare fastidio. Mentre di Cospito ormai appena si accenna, nelle cronache del caso di Andrea Del Mastro, mentre di Cospito ormai appena si accenna nelle cronache, del caso di Andrea Del Mastro, sottosegretario di giustizia, per il quale il GUP di Roma ha ordinato l'imputazione coatta, è sospesa la frase, continuano a parlare. Una vicenda in cui i partiti si combattono per regolare i loro conti sulla pelle di un anarchico ristretto al carcere più duro, perché potrebbe tenere collegamenti con un'organizzazione che di fatto non esiste. Nel procedimento contro il sottosegretario Dalmastro, Cospito punta a costituirsi parte civile danneggiato dal reato nel caso in cui l'accusa dovesse restare in piedi. Ovviamente non è detto che la richiesta sia accolta dai giudici. Cospito resta in attesa della fissazione dell'udienza sulle foto, ma anche di quella del Tribunale di Sorveglianza di Roma, per discutere del ricorso contro il 41 bis dopo che il ministro Carlo Nordio non aveva risposto all'istanza della difesa sull'argomento. Rimaniamo sempre in tema di 41 bis, cioè sì, 41 bis, perché ci sono degli aggiornamenti che riguardano i due prigionieri in sciopero della fame che si trovano in Sardegna, che tra un attimo vi vado a dare se non lo trovo più. Ecco, aggiornamenti su Domenico e Natale in sciopero della fame bancaria. Domenico Porcelli continua lo sciopero della fame iniziato 5 mesi fa. Agli esami del sangue sballati, dolore alle ossa e bassa saturazione del sangue. Non ha ancora ricevuto nessuna risposta dal ministro Nordio. La sua udienza sui 41 bis risulta ancora fissata fino a ottobre. Natale, interrotto invece martedì 11 luglio, l'altro ieri, a causa dei suoi valori glicemici, iniziava a essere in uno stato soporoso anche di giorno e senza forze, con gravi rischi. Quindi è abbastanza preoccupante la situazione, in quanto appunto è a differenza di Alfredo Cospito. Questi così detenuti non sono supportati fuori da una campagna diciamo abbastanza consistente, di conseguenza sono abbandonati a se stessi per quanto riguarda le cure mediche, i controlli sulla salute, abbastanza insomma abbandonati a loro stessi, e dunque la situazione è preoccupante. Speriamo sicuramente deve cambiare questa situazione. Un aggiornamento anche riguardo, no, una dichiarazione volevo leggere che mi ha colpito, un messaggio di solidarietà dalle carceri greche sulla rivolta in Francia, è dell'8 luglio, cioè è di martedì 4 luglio, però è uscita l'8 luglio. Dimitris Tsatsivasilaidis, messaggio di solidarietà dalle carceri greche sulla rivolta in Francia. Sorelle e fratelli miei, voi che oggi combattete contro la macchina militare dell'ordine imperialista europeo, voi che non avete dimenticato il massacro degli algerini a Parigi 60 anni fa, voi che state lottando per non vivere come schiavi fino alla morte, voi che avete marciato a mani nude davanti alle file degli assassini a Saint-Solin e altrove per l'acqua, per la terra, per la comunità e per la libertà. Voi che fate rivivere lo spirito di Babet e di Louis Blanquin, la gioventù della comune. Tuonate nel profondo dei nostri cuori a noi, guerriglieri anticapitalisti imprigionati in tutta la terra. Il conflitto continuerà a diventare sempre più violento giorno dopo giorno. La civiltà capitalista non ha futuro. Diamo tutta la nostra esistenza per la costruzione dell'autonomia e della forza proletaria e sociale armata. Viva l'anarchismo rivoluzionario, viva l'internazionale, avanti la rivolta. Dimitris Tsatsivasilaidis, pubblicato in greco, eccetera, traduzione italiana sulla Nemesi. Ancora un altro aggiornamento di oggi in italiano, è uscito, cioè questi giorni, comunque io lo sto leggendo da una pubblicazione di oggi, che riguarda una presenza solidale in occasione del processo contro Monica Caballero e Francisco Solar, il 18 luglio saranno a processo a Santiago in Cile, quindi è molto lunga questa comunicazione. No, ma non è quella che volevo leggervi, comunque ve la leggo. Vabbè. Stai con i potenti o con chi si rivolta, la campagna, scusate, la compagna e il compagno anarchici Monica Caballero e Francisco Solar sono accusati degli attacchi esplosivi contro il 54esimo commissariato, l'ex ministro degli interni Rodrigo Hinzpeter e il quartiere dei ricchi durante la rivolta. Entrambi sono stati arrestati nel 2020 e stanno affrontando un processo in cui il potere sta cercando di seppellirli con decenni di carcerazione. Quanti hanno restituito i colpi e posto fine all'impunità dei repressori si sono collocati in una chiara e antica tradizione rivoluzionaria, in particolare anarchica, che ha cercato di distruggere con le proprie mani il monopolio della violenza dello Stato e la tranquillità di coloro che dai propri incarichi hanno comandato le più brutali incursioni repressive. In questa stessa linea storica collochiamo la vicenda dei compagni Monica e Francisco. In vista del processo contro la compagna e il compagno, facciamo straripare la solidarietà con Monica e Francisco. Ecco, c'era un altro comunicato più articolato, più lungo, dei due compagni, dove appunto chiamavano un po' alla solidarietà, ognuno con le sue appunto modalità, possibilità, però per manifestare la propria, diciamo, oltre che la propria solidarietà, anche una linea di continuità con appunto la tradizione rivoluzionaria. Thank you. Allora, il secondo blocco, diciamo l'ultimo blocco della trasmissione di stasera di Zardins, prevede la presentazione della rivista, dell'ultimo numero, numero 14, della rivista Antitesi, analisi strumenti per la rivoluzione proletaria. L'ultimo numero di Antitesi tratta interamente, diciamo da varie sfaccettature, la questione della guerra. Ne parleremo fra pochi secondi con un compagno che ben conoscete, e io vorrei solo partire così, diciamo, dare il là all'intervista con una frase di un intellettuale progressista, il famoso Giorgio Agamben, che è ritenuto, diciamo, un guru, diciamo, da molti, cioè dall'autonomia, dall'ex autonomia, lo vedono come un teorico, ecco, delle loro questioni. Lui dice in questo articolo che lui pubblica ogni tanto sulla sua casa editrice: durante la pandemia i media e gli organi ufficiali non hanno mai negato che i dati sulla mortalità che dichiaravano si riferivano a chi fosse morto risultando positivo, indipendentemente dalla causa effettiva della morte. Malgrado questo, essi, pur essendo evidentemente falsi, sono stati accettati come veri. Allo stesso modo, oggi nessuno nega che la Russia abbia conquistato e annesso il 20% del territorio ucraino, senza il quale l'economia ucraina non è in grado di sopravvivere. E tuttavia le notizie non fanno che parlare della vittoria di Zelensky e della ormai immancabile sconfitta di Putin. Nelle notizie la guerra è tra due persone, non tra due eserciti. Il problema a questo punto: quanto può durare una menzogna di questo tipo? Eccetera, eccetera. Allora, così, la questione della guerra viene messa al centro di questo numero di Antitesi. Se ci vuoi parlare un po', presentare così il progetto di questo numero, ecco, relativamente a questo numero. Sì, ciao a tutti e a tutte intanto, e grazie dello spazio. Vabbè, noi pensiamo che nell'attuale fase non si possa fare dei ragionamenti politici, in senso rivoluzionario, ma neanche antagonista. È possibile distinguere i termini: rivoluzionario nel senso del rovesciamento dell'esistente, antagonista nel senso di uno scontro comunque con l'esistente. E quindi comunque una ricerca in qualche maniera, un'alternativa, anche se non per forza rivoluzionaria, e non si possa fare nessun discorso di questo tipo qua se non si parte della guerra, nel senso che la guerra intesa soprattutto come guerra imperialista è sempre più al centro della realtà che viviamo, anche se magari non viene appunto ammesso, non è una cosa, come dire, per forza chiara, ma appare sempre più chiara da un certo punto di vista, e dall'altra parte insomma c'è un tentativo comunque di mistificare sia questa centralità e sia la natura della guerra, la sua funzione, il suo ruolo, ecco. E giustamente insomma, come iniziavi tu nella frase che tu suggerivi, che tu insomma hai posto, hai usato per introdurmi, la questione della, insomma, la questione, una certa, come dire, continuità nella narrazione unilaterale, martellante, in un certo senso di stile fascista, totalitario sull'epidemia, si è vista anche si sta vedendo sulla guerra un po' le narrazioni per certi versi in qualche maniera coincidono, insomma per i mass media è stato facile insomma utilizzare una, come dire, utilizzare una, un format, un metodo già sperimentato nei due anni di cosiddetta pandemia, e poi ricalibrarlo rispetto alla narrativa mediatica sulla guerra. E uno degli aspetti, vabbè, è quello della personalizzazione, quella della mostrificazione, quella della dell'inverosimilità anche della narrazione, di un reale che diventa sempre più caricaturale a fini propagandistici. E ieri, insomma, il terribile virus che insomma poi abbiamo sconfitto in una con una narrazione che diventava bellica, insomma, nel senso che si è fatta già bellica. Ricordo ad esempio, qua io parlo da Trieste, ad esempio l'accusa ai no Green Pass di Trieste è stata a un certo punto dal presidente di Confindustria Alto Adriatico, signora Grussi, è stata quella di essere disertori, aggiungendo: in guerra i disertori si fucilano. E poi per arrivare oggi, ad esempio, al mostro russo, insomma, una certa narrazione sul conflitto, il mostro russo, l'attacco, le psicopatologie di Putin, insomma, questo avanzamento, questa volontà così nata da velleità imperiali di restaurazione o dell'impero zarista o dell'Unione Sovietica, a seconda dell'oratore che parla, e invece, insomma, non c'è una capacità di affrontare in termini anche razionali, se vogliamo, gli eventi che hanno portato al conflitto in Ucraina, all'intervento russo, eccetera eccetera, e questo è un dato, ma insomma non, sulla narrazione mediatica, la narrazione mediatica è solo una parte, insomma, perché sappiamo che la propaganda è solo una parte della realtà. Poi c'è la realtà, e c'è una realtà che, insomma, vede un strutturarsi dell'economia sulla base della guerra, insomma, delle necessità di guerra. Noi ormai andiamo verso un capitalismo di guerra che si struttura, che anche in questo caso ha seguito il modello del Covid, con un forte ruolo, con un forte protagonismo politico dello Stato. Abbiamo quello che si chiama il keynesismo militare, cioè un forte intervento statale nell'economia, un complesso bellico, industriale, militare industriale che si fa sempre più forte, come, e su cui tende a ruotare anche il resto dell'economia. Abbiamo dei ragionamenti complessivi sulle catene del valore e del commercio a livello mondiale, che sta risentendo sempre di più della divisione in blocchi, in sostanza un blocco sino-russo con un suo allargamento a quella che è l'area dei BRICS, Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, e un blocco euroatlantico in cui fa parte l'Italia. Un piano finanziario, anche qui, insomma, l'esperienza del Covid nel blocco delle catene del valore per il propagarsi dell'epidemia, con la produzione, il commercio mondiale che chiudeva, singhiozzo, eccetera, è stata un'esperienza, insomma, valorizzata dai governi per poi spingere sulla necessità di quello che, in termini, ad esempio in termini industriali, si chiama reshoring, cioè ritorno in patria degli investimenti industriali, o nearshoring, dislocamento degli investimenti industriali in territori politicamente amici. E il governo dell'inflazione, con le politiche sui tassi di interesse, a livello finanziario, insomma, la guerra ha creato le condizioni per un'inflazione e per una speculazione, insomma, piuttosto forti. Lo vediamo negli aumenti dei generi alimentari e delle bollette, in parte calmierate soprattutto per gli industriali, ma insomma abbiamo visto questo fenomeno, e che deriva dai riverberi della guerra sul mercato energetico, ad esempio, oltre che sul mercato alimentare, e e quindi tutto un gestire a livello finanziario con le politiche delle banche centrali sui tassi di interesse, certo, di questo fenomeno. Certo. E poi ancora di più lo abbiamo visto sui piani di riarmo con i grossi piani finanziari di investimento pubblico, insomma si parlava prima di chiesismo militare, piano piano il PNRR, che era iniziato come insomma una sorta di panacea green per ripensare il mondo, così ci raccontavano dopo il Covid, assume il volto del milione di munizioni rifornire agli arsenali europei di un milione di munizioni, bisogna insomma rimpinguare gli arsenali dell'Europa, degli stati imperialisti europei di armi, e i soldi alla fine saranno quelli del PNRR. Questo è un po' insomma una situazione complessiva, sì, e a livello politico. Per riassumere, Thatcher per i proletari, Keynes per i padroni, dice c'è un paragrafo. Sì, nel senso che ovviamente tutto questo ha delle ricadute insomma a livello sociale, cioè nel senso che l'aumento dei prezzi, ma anche la necessità, insomma in queste ore il Consiglio Supremo di Difesa presieduto da Mattarella ha adottato la linea ufficiale dell'aumento del 2% delle spese militari, esatto, del PIL, come da indicazioni della NATO, peraltro da anni, dal 2006 mi sembra c'è stata la prima proposta da questo punto di vista in un consiglio della NATO, e insomma l'Italia si adeguerà a questo, e stiamo arrivando a, negli ultimi anni, un aumento circa del 40% della spesa militare, dall'invasione russa della Crimea siamo arrivati, insomma la spesa militare è salita esponenzialmente in tutti i paesi europei, per arrivare non so ai casi limite della Polonia, che ormai è una specie di potenza militare da nulla, grazie al sostegno statunitense per contrapporsi ovviamente alla Russia sul confine. E quindi quello che in questi termini queste manovre insomma sono pagate dai proletari, perché da qualche parte i soldi vanno a prendere. Insomma abbiamo visto l'eliminazione del reddito di cittadinanza, con tutta la sanità che viene, nonostante tutta la propaganda che è stata fatta in epoca Covid, l'azzeramento ad esempio del fondo oncologico, e tutto anche quella che si chiama la devoluzione a livello regionale, la riforma Calderoli serve anche quella per ottimizzare le spese, e questo significa di fatto tagli lineari e comunque apertura di spazi di profitto per la sanità privata. E insomma quello che stiamo vedendo è in un certo senso, sì, nel senso che la situazione insomma la stanno pagando ancora una volta i lavoratori, le lavoratrici, i pensionati, gli studenti, insomma continua quel processo. Questo governo in particolare, ma anche quello di Draghi, insomma sta proprio procedendo nel senso di trasferire una buona fetta della spesa sociale verso la spesa militare, verso il riarmo. Sì, con un'autorevolezza politica che Draghi magari non aveva, che si presentava come tecnico, no? Invece diciamo questo governo qui è proprio di colore, è autorizzato anche a prendersi queste scelte, sì, qui, no? Diciamo che sì, noi tentiamo anche nel numero sì, insomma nella prima parte, sì, facciamo un quadro economico, sì, la rivista è divisa in cinque parti, la prima parte sfruttamento e crisi, analizza più le cose dal punto di vista economico, la seconda classi sociali, proletariato e lotte, più dal punto di vista della dialettica tra le classi, nelle lotte che si sviluppano nella società, la terza parte, imperialismo e guerra, analizza più le questioni dal punto di vista internazionale, e poi vi è una parte controrivoluzione ed egemonia di classe che analizza, si focalizza sulla sovrastruttura, soprattutto nel nostro paese in termini generali, e poi l'ultima parte più teorica, ideologia borghese, teoria del proletariato. Sì, come giustamente mi segnalavi tu, c'è un punto insomma ideologico questo governo, nel senso che sono al potere gli eredi dell'MSI, quindi della Repubblica Sociale, quindi del fascismo storico, e insomma sono stati non a caso scelti, ecco, nel senso che hanno sia per collocazione organica, nel senso che abbiamo un ministro della difesa che è l'ex capo di Confindustria militare, e lui stesso industriale del militare di Leonardo, e manager, e quindi hanno una collocazione di classe strutturale ben precisa al loro, insomma, al loro interno, e poi insomma appartengono insomma tradizionalmente a quella che è la vocazione militarista della destra fascista, e quindi da questo punto di vista hanno una legittimità più forte, insomma. Hanno smesso in maniera molto subitanea, dimostrando tutta la loro ipocrisia, il volto dei filorussi di quando si aggiravano sulla Piazza Rossa, cercavano l'amicizia di Putin, avevano un po' questa fascinazione per comunque un personaggio che ha rappresentato, per certi versi ancora rappresenta per parte della destra europea, un richiamo identitarista, tradizionalista, così. E salendo nelle stanze dei bottoni si sono fatti atlantisti come non mai, e ovviamente la precondizione per salirci, per gli assetti che l'Italia e la collocazione che ha dal punto di vista della politica internazionale, anche degli legami strutturali che ha il capitale italiano col capitale statunitense, eccetera, si sono vestiti di questo integralismo atlantico, e ormai si collocano in quella destra russofoba, o comunque ultra guerrafondaia, che va a coprire dai paesi baltici alla Polonia, a molti paesi dell'est, con l'eccezione dell'Ungheria di Orban, che certo non è un personaggio simpatico, però sta giocando una sua partita così di neutralità, vuole rappresentare una voce diversa per interessi, per tutta una serie di interessi, certo, e di legami anche economici che ha sviluppato con la Russia negli ultimi anni. Sì, ascolta, siccome abbiamo 5 minuti, no? Io ci tenevo a fare una domanda specifica, no? Sulla prospettiva che... Allora, no, parentesi. Secondo me la rivista che curate è sottovalutata, secondo me, non per fare adesso farsi complimenti a vicenda, ma voglio dire, è una rivista con degli approfondimenti e fornisce degli strumenti immediati che sono sicuramente utilizzabili anche da chi non è marxista-leninista, insomma, può tranquillamente utilizzare le vostre ricerche, gli esiti delle vostre discorsi. Una cosa che a me ovviamente dopo le conclusioni sono rispettivamente sono, voglio dire, condivisibili o meno, nel senso le tesi di fondo, ma quello è secondario. Secondo me anche chi un anarchico può tranquillamente prendere e leggere, insomma, l'antitesi non gli succede niente, non gli viene, ecco, nessuna malattia. Ma volevo dire questa questione. Allora, La dimensione cioè la questione della tecnologia, no? La questione dell'apparato tecno-industriale. E ci sono molti compagni, così, compagni anarchici che stanno portando avanti questa analisi, mettendo in evidenza questo fattore, diciamo, più così esplicito nell'apparato tecno-industriale da un certo momento in poi, diciamo dagli anni 30, dice qualcuno, in avanti, ma sono cifre, ma comunque oggi come oggi, con il nucleare, cioè con l'energia nucleare, con la fissione, col problema delle scorie, eccetera, eccetera, con il biolaboratori, con la sperimentazione bio nanotecnologica, c'è un carattere di irreversibilità, no? Nella tecnologia, cioè il concetto di produzione che i rivoluzionari marxisti-leninisti acquisiscono, mettiamo per dir così, adesso dall'analisi borghese, da dico male come posso dirla io, ma il concetto di produzione diventa appunto va in secondo piano di fronte a questa irreversibilità dell'apparato tecno-industriale. Cosa vuol dire? Che c'è una prospettiva di un uso liberato, di un uso sociale rivoluzionario anche della tecnologia, che comincia a diventare insostenibile, cioè non è più rovesciabile la situazione, nel senso che appunto fanno questo esempio i compagni, ad esempio per le scorie nucleari, no? Essendoci dei tempi di decadimento, adesso senza entrare nel dettaglio, però che sono di centinaia di migliaia di anni, questo vuol dire che non c'è fisicamente nessuno, cioè concretamente nessuno può assumersi la responsabilità di queste scorie, quindi di questo problema. Quindi è per dire che normalmente la reversibilità comporta la possibilità di alternativa, no? Tra sistema, ad esempio un sistema capitalista e un sistema, diciamo, di gestione proletaria della realtà. E se non c'è più questa, si chiude questa possibilità di scelta, vuol dire che, perché appunto non c'è più possibilità di assumersi responsabilità di questi fenomeni. Allora, una vostra, cioè tentiamo adesso in pochi minuti, una prospettiva vostra su questa questo problema, insomma, dell'apparato tecno-industriale. Secondo me, insomma, lo sviluppo delle forze produttive, insomma, è sempre relativo ai rapporti di produzione che le guidano, e poi, insomma, si entra in una fase di contrasto e di contraddizione tra e questo apre, insomma, una fase di crisi. La reversibilità, secondo me le forze produttive si sviluppano, tendono a svilupparsi sempre comunque guidate dagli interessi della classe dominante, quindi quello che noi abbiamo oggi di tecnologia, quello che abbiamo noi oggi di industria, risente dell'interesse del profitto. E ovviamente capire come la tecnologia e quello che si chiama progresso industriale, eccetera, tanto ne vediamo gli effetti, come mi viene in mente Engels, dice nell'Origine della famiglia, proprietà privata dello Stato, dice: ogni innovazione ricade sulle classi oppresse. Su questo, insomma, anche i classici sono chiari, cioè tutte le innovazioni che noi abbiamo comunque ricadono, vengono fatte pagare dalle classi dominanti alle classi dominate. E quello che penso io è che la rivoluzione proletaria dovrà mettere in discussione sicuramente quelli che sono stati gli sviluppi, insomma, della scienza, della tecnologia, come sono stati sviluppati dalla borghesia. Non li possiamo prendere così, come non possiamo prendere così altre cose, tra cui lo Stato, tra cui altri strumenti, certo. Ma da questo ad assumere un ruolo, un'analisi che insomma si vede nel movimento anarchico, che vede una centralità invece dello scontro tra uomo e tecnologia, insomma tra umanità e tecnologia, ovviamente noi non questo discorso non lo facciamo. Certo, insomma, ci sono delle possibilità del marxismo di deviazione positivistica che insomma sono evidenti, lo abbiamo visto nella pandemia. Insomma, per me il marxismo non è positivismo. Comte, Marx, Comte diceva che tramite la scienza l'umanità si può salvare, anzi ha un futuro radioso. Marx diceva che con la lotta di classe l'umanità può liberarsi, quindi sono due pensatori teorici opposti, uno un teorico della borghesia, l'altro un teorico del proletariato. Con la recente pandemia abbiamo visto che insomma molti compagni, diciamo così, invece sono imbevuti di positivismo scientista invece più che di marxismo di critica di classe, insomma, dico, secondo me è verso appunto quella che è la scienza, la tecnologia e il progresso industriale, eccetera eccetera. Va bene, noi invece ti ringraziamo noi di questo approfondimento, ricordiamo appunto che la rivista si può richiedere sia a noi sia insomma anche a direttamente alla redazione, mi sembra giusto? Sì, c'è una mail. chiocciolainventati.org, c'è un Facebook e c'è anche un canale Telegram. Sì, abbiamo detto tutto ed è appunto disponibile il numero 14, mettere la guerra al centro. Vi ringrazio. Grazie a te. Buona serata. Saluti. Ciao. Ciao. Bene, siamo giunti al termine di questa trasmissione che è Zardins Magnetics, abbiamo sforato di qualche minuto, comunque trasmissione che viene effettuata ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane da Udine, dalle ore 20 alle ore 21:30, appunto ogni giovedì. Ricordo che questa trasmissione viene condotta dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione del Friuli e Trieste, e inoltre vi leggo i nostri contatti se volete scriverci tramite posta elettronica. Basta che lo fate scrivendo a liberetutti@autistiche.org oppure in forma cartacea ad Associazione Senza Sbarre, Casella Postale 129, Trieste Centro 34121. Ricordo inoltre che questa trasmissione, ma anche tutte quelle avvenute le settimane scorse, potete andare a riascoltarle su zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Bene, questo è tutto, vi saluto e salutiamo anche chi ci ascolterà domani in replica dalle ore 17 sulla web radio Radiazione. E inoltre ricordo che il brano che forse si sta ancora ascoltando in sottofondo sono il Ritmo Tribale, il brano è Il Lupo. Prima avevamo ascoltato Il Peggio, Linea Diritta, e sono tutti stati estrapolati da questa compilation Benefit uscita nel 1992 grazie all'etichetta Blue Bass di Aosta, e questa compilation si chiama ancora Shabab, ed era comunque una compilation Benefit a sostegno dell'Intifada. Bene, ciao a tutti e al prossimo giovedì.